Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei, nel corso delle catechesi sui padri della Chiesa, parlare su una figura assai misteriosa, un teologo del VI secolo, il cui nome è sconosciuto, ha scritto sotto il pseudonimo Dionigi dell'Areopago. Con questo pseudonimo allude alla parte della scrittura che abbiamo adesso sentito, cioè alla storia raccontata da San Luca nel 17° capitolo degli Atti degli Apostoli, dove ci va detto che Paolo ha predicato in Atene sull'Areopago per una elite della grande intelligenza greca, ma alla fine la maggior parte degli ascoltatori si dimostra o disinteressata o ride, ma alcuni pochi vengono, ci dice San Luca, e credono, e ci dona due nomi, Dionigio d'Areopago e una certa donna di nome Damaris. Se l'autore di questi libri ha scelto, 5 secoli dopo, il pseudonimo Dionigi dell'Areopago, voleva dire che la sua intenzione era mettere la saggezza greca in servizio del Vangelo, aiutare all'incontro tra la cultura, l'intelligenza greca e l'annuncio di Cristo. Voleva fare quanto intendeva questo Dionigi, che il pensiero greco si incontri con l'annuncio di San Paolo, farsi, essendo greco, discepolo di San Paolo e così discepolo di Cristo. Perché ha nascosto il suo nome e ha scelto questo pseudonimo? Una parte di risposta è già detto, voleva proprio esprimere questa intenzione fondamentale del suo pensiero, ma ci sono due ipotesi circa questo anonimato e pseudonimato. Una prima ipotesi dice era una voluta falsificazione, con questa falsificazione, ridatando le sue opere al primo secolo, al tempo di San Paolo, voleva dare alla sua opera una autorità quasi apostolica. Ma migliore di questa ipotesi, che mi sembra poco credibile, l'altra, che voleva proprio fare un atto di umiltà, non dare gloria al suo proprio nome, non creare un monumento per se stesso con le sue opere, ma realmente servire il Vangelo, creare una teologia ecclesiale, non individuale di sé. E in realtà è riuscito di fare una teologia che certo possiamo datare nel VI secolo, ma non attribuire a una delle figure di questo tempo. È una teologia un po' disindividualizzata, cioè una teologia che parla un pensiero e un linguaggio comune. Era un tempo di acerbe polemiche dopo il Concilio di Calcedone. Lui invece nella sua 7ª epistola dice: non vorrei fare delle polemiche, parlo semplicemente della verità, cerco la verità, e la luce della verità da se stessa fa cadere gli errori e fa splendere quanto è buono. E con questo principio ha purificato il pensiero greco e messo in sintesi con il Vangelo. Mi sembra questo principio, che rivela nella sua 7ª lettera, è anche espressione di un vero spirito dialogo, cercare non le cose che separano, cercare la verità, e la verità stessa poi luce e fa cadere gli errori. Pur essendo quindi questa una teologia soprapersonale, realmente ecclesiale, possiamo dire che deve essere scritta nel VI secolo. Perché? Lo spirito greco che lui mette a servizio del Vangelo lo incontra nei libri di un certo Proclo, morto nel 485 ad Atene, cioè in un tardo platonismo che trasforma il pensiero di Platone in una religione filosofica che alla fine vuole essere una grande apologia del politeismo greco e ritornare, dopo il successo del cristianesimo, al politeismo greco. Vuol dimostrare che in realtà le divinità sono le forze cosmiche che esistono, e così sarebbe più vero il politeismo che il monoteismo con l'unico Dio creatore. Crea un grande sistema cosmico di divinità, di forze, e mostra questo Proclo come in questo cosmo deificato l'uomo può trovare l'accesso alla divinità. Distingue strade per i semplici che non possono elevarsi alle vertici della verità, per loro certi riti, anche superstiziosi, sarebbero sufficienti. I saggi invece si purificano e arrivano alla pura luce. Questo pensiero quindi profondamente anticristiano è una reazione tarda contro la vittoria del cristianesimo, un uso anticristiano di Platone, mentre era già in corso un uso cristiano. È interessante che questo pseudo Dionigi osa usare proprio questo pensiero per mostrare la verità di Cristo, trasforma questo universo politeistico in un cosmo creato di Dio, nella armonia del cosmo di Dio, dove tutte le forze sono lode di Dio, e mostra questa grande armonia, questa sinfonia del cosmo che va dai serafini agli angeli, arcangeli, all'uomo e a tutte le creature che insieme riflettono la bellezza di Dio e sono lode a Dio. Trasforma quindi così l'immagine politeista in un elogio del creatore e della sua creatura. Così appaiono anche le caratteristiche essenziali del suo pensiero. Il suo pensiero innanzitutto una lode cosmica. Tutta la creazione parla di Dio e è un elogio di Dio. E essendo così una lode di Dio la creatura, secondo lui, la sua teologia diventa una teologia liturgica. Dio si trova proprio lodandolo, pregando, non solo riflettendo. E la liturgia non è qualcosa di positivistico, qualcosa inventata per fare un'ora religiosa, ma è il cantare con il coro delle creature e l'entrare nella realtà cosmica stessa. E proprio così la liturgia, apparentemente solo ecclesiastica, diventa larga e grande, diventa la nostra unione con il linguaggio di tutte le creature. E dice, parlare di Dio non si può in modo astratto, parlare di Dio è sempre, con la parola greca, hymnein, cantare per Dio con il grande canto delle creature che si riflette e concretizza nella lode liturgica. Pur essendo così la sua teologia cosmica, ecclesiale, liturgica, è anche profondamente personale. Lui ha creato la grande prima teologia mistica. Anzi, la parola mistica diventa con lui un nuovo significato. Fino a quel tempo, per i cristiani, la parola mistica era equivalente alla parola sacramentale, cioè quanto appartiene al mysterion, al sacramento. Con lui la parola mistica diventa più personale, più intima, esprime il cammino dell'anima verso Dio. E come trovare Dio? Qui osserviamo di nuovo un elemento importante nel suo dialogo tra filosofia greca e cristianesimo, fede biblica. Apparentemente quanto dice Platone, quanto dice la grande filosofia su Dio è molto più alto, molto più vero. La Bibbia appare abbastanza barbarica, semplice, precritica si dice oggi. Ma lui dice proprio questo è necessario, perché così possiamo capire che anche i più alti concetti di Dio non arrivano fino alla vera grandezza di Dio, sono improprie, e queste immagini ci fanno capire che Dio è sopra tutti i concetti. Nella semplicità delle immagini della Bibbia troviamo più che nei grandi concetti la faccia di Dio, e la nostra incapacità di esprimere realmente che cosa è Dio. Così si parla, lui stesso lo fa, di una teologia negativa. Possiamo più facilmente dire che Dio, che cosa Dio non è, che non esprimere che veramente è. Solo tramite queste immagini possiamo indovinare il suo vero volto. E dall'altra parte questo volto di Dio è molto concreto, è Gesù Cristo. E benché lui ci mostra, seguendo questo proclo, l'armonia dei cori celesti, e sembra che tutti dipendono da tutti, anche è vero che sarebbe molto lontano il nostro cammino a Dio, dimostra alla fine la mediazione a Dio, e Dio stesso è molto vicino in Gesù Cristo. E così una teologia grande, misteriosa, diventa anche molto concreta, sia della interpretazione della liturgia, sia nel linguaggio su Gesù Cristo. Con tutto questo, questo Dionigi dell'Areopago ha avuto un grande influsso sulla teologia medievale, su tutta la teologia mistica, sia dell'Oriente sia dell'Occidente. È stato quasi riscoperto nel XIII secolo, soprattutto da San Bonaventura, il grande teologo francescano, che in questa teologia mistica ha trovato lo strumento concettuale per interpretare la eredità così semplice, così profonda di San Francesco. E con Dionigi ci dice, alla fine l'amore vede più che la ragione. Dove la luce della ragione non ci dà più accesso, nelle tenebre della ragione l'amore vede, l'amore è occhio, e l'esperienza ci dà più che la riflessione. E che cosa è questa esperienza? Bonaventura ha visto in San Francesco l'esperienza di un cammino molto umile, molto realistico, giorno per giorno, in questo andare con Cristo, accettare la sua croce, in questa povertà, in questa umiltà anche della ecclesialità, c'è esperienza che è più alta che la riflessione. Tocchiamo realmente il cuore di Dio. Oggi esiste una nuova attualità di San Dionigi. Lui appare come un grande mediatore nel dialogo moderno tra cristianesimo e le teologie mistiche dell'Asia. Per queste teologie mistiche dell'Asia è caratteristico che non si può dire chi Dio è, si può dire solo in forme negative di Dio, nel no si può parlare di Dio, e lontano, e solo nel entrare all'esperienza con questo no si tocca Dio. E qui si vede una vicinanza tra il pensiero dell'Areopagita e delle religioni asiatiche. Un mediatore oggi, come era mediatore tra spirito greco e Vangelo, anche oggi tra Vangelo e le religioni mistiche asiatiche. Si vede così che il dialogo non nasce dalla superficialità. Proprio dove uno entra nella profondità dell'incontro con Cristo, si apre anche lo spazio vasto per il dialogo. Dove uno incontra la luce della verità, è una luce per tutti, scompaiono le polemiche e diventa possibile capire l'uno l'altro, almeno parlare l'uno l'altro, avvicinarsi. Il cammino del dialogo è proprio l'essere vicino in Cristo a Dio, l'essere nella profondità dell'incontro con Cristo, nell'esperienza della verità che ci apre la luce e ci aiuta ad andare all'incontro con gli altri. La luce della verità è luce dell'amore. E in fin dei conti ci dice: prendete la strada dell'esperienza umile della fede ogni giorno, e così il cuore diventa grande e può vedere e illuminare anche la ragione perché veda la bellezza di Dio. E preghiamo il Signore che ci aiuti anche oggi di mettere in servizio del Vangelo la saggezza dei nostri tempi e di trovare di nuovo la bellezza della fede, l'incontro con Cristo in Dio, con Dio in Cristo.